Storie di nuovi italiani di Valentina Furlanetto. Buonasera a tutti da Valentina Furlanetto e bentornati ai figli di Enea, Storie di nuovi italiani. Questa sera siamo in collegamento con una psicoterapeuta. Io do il benvenuto alla nostra ospite che è Ronché Oluwadare. Buonasera. Buonasera a lei. Ronché è una psicoterapeuta di origini nigeriane. Oltre che lavorare per la clinica privata Pantarei a Milano, opera anche un consultorio. Si occupa in particolare di pazienti di seconda generazione. Che tipo di lavoro fa sui suoi pazienti e quali sono le richieste che le vengono fatte? Rispetto ai pazienti di seconda generazione, di solito arrivano con una richiesta rispetto a un blocco, no? In una fase magari di transizione del ciclo di vita in cui si trovano, quali sono i dettagli identitari che vogliono tenere e quali dai quali si vogliono smarcare, no? Il lavoro che io faccio con loro è anche un lavoro legato all'idea che tanti dei blocchi che sentono forse è la necessità di fare un po' di ordine, no? Rispetto alle radici e invece la cultura nella quale sono cresciuti, che in questo caso è quella italiana. È un viaggio che ti porta a trovare la miscela personale di come integrare queste due parti, no? E a volte in alcuni casi le parti sono più di due, no? Perché adesso noi ipotizziamo che una seconda generazione abbia i genitori che provengono dallo stesso posto, dalla stessa città, ma come dire, la situazione mia personale non è la norma. Spesso e volentieri i ragazzi di seconda generazione hanno dei genitori che non vengono dallo stesso posto, no? Né dalla stessa città, ma spesso e volentieri neanche dallo stesso paese. Quindi, come dire, noi qui parliamo di una doppia integrazione. Spesso e volentieri si trovano a dover integrare la cultura della mamma, la cultura del papà e la cultura in cui crescono. Ci sono queste difficoltà in tutte le comunità di origine straniera o alcune comunità sono più toccate di altre? Guardi, io mi sento di dire che questa difficoltà appartiene un po' a tutte le comunità straniere. Io non seguo solo ragazzi di origine africana, no? E sento che indipendentemente dall'area di provenienza, quindi che sia l'Africa, che sia l'Asia, penso anche solo all'Europa dell'Est, no? Che è uno dei numeri di migrazione importanti nel nostro paese, io questa difficoltà la vedo e si ripresenta. A volte la vera difficoltà, secondo me, è anche tanto legata a se la famiglia di origine ha una comunità di riferimento rispetto al paese da dove si proviene o meno, cioè quindi quanto la cultura di origine è presente nella vita dell'individuo, oppure se c'è addirittura, a volte succede, una totale cancellazione. Capita che alcune famiglie che emigrino decidano di rinunciare, no? Ai dettagli del posto da dove vengono. Mi capita spesso di sentire storie di questo tipo con le persone di origine cinese, le famiglie di origine cinese che addirittura nel nome si integrano, diciamo, alla cultura italiana, danno dei nomi italiani, non fanno parlare la lingua di origine. Esatto, e pensi quanto può essere potente questa cosa, no? Come e questa dire, è una cosa, nome, diciamo, efficace e utile per la, tra virgolette, integrazione, oppure al contrario può essere un problema che poi risale dal punto di vista psicologico? Il nome, io mi sento di dire che è importante, no? Definisce in parte la nostra identità, come veniamo chiamati, come ci riconosciamo, ma non sempre queste persone vengono chiamate con il nome italiano, per esempio, dentro il contesto familiare. Quindi è come se fossimo due persone diverse, no? In famiglia e fuori dalla famiglia. Allora si ripete proprio quello di cui parlavamo prima, il fatto di mettere insieme queste due persone, perché sono proprio due parti dell'individuo che esistono e coesistono. Quindi come fare a tenere insieme questo cocktail, amalgamarlo in modo che sia un buon cocktail, no? Un cocktail sano. Rispetto al percorso scolastico, questi sono stati mesi difficili in cui i ragazzi si sono confrontati con la didattica a distanza. Ci è stato segnalato da più persone di origine straniera che questo è anche un problema dal punto di vista dello scatto sociale, dello scatto culturale che queste generazioni hanno di solito attraverso la scuola. Lei ha sentito questo problema nei confronti che ha con i suoi pazienti? Beh sì, come diceva lei, passare alla didattica da remoto, il passaggio è stato fatto dando per scontato molte cose, no? Per esempio che ogni famiglia abbia un computer che possa sostenere la didattica a distanza, o quantomeno che ci siano computer anche per sostenere la didattica a distanza e non solo per lavorare. E mi sento di dire questo scontato è stato ripiegato sui ragazzi, anche quelli da me seguiti, con causando una demotivazione. Ha un po' acceso, secondo me, la lampadina dell'ennesima disuguaglianza, ecco. Che significato può avere, ad esempio, la legge sulla cittadinanza per questi ragazzi? È sempre stata messa da parte per questioni politiche, ma potrebbe aiutare a farli sentire più parte della comunità? Se solo pensa alla legge per la cittadinanza, quello è aberrante, no? Questi ragazzi nascono, o magari arrivano che nemmeno hanno ancora sviluppato la memoria, in questo paese, e fino a che non hanno 18 anni non possono poter dire ad alta voce, senza anche un po' sentirsi di star mentendo, di essere italiani. Ecco, io sento che non stiamo imparando delle cose dalle esperienze degli altri paesi europei, sento che stiamo facendo finta di nulla, tant'è che, come diceva lei... Cosa bisognerebbe fare allora per imparare? Bisognerebbe riconoscere a questi ragazzi la loro cittadinanza. Fare finta che non esistano ci porta a due cose. Il primo è il processo che abbiamo già visto, è pieno, io glielo assicuro, pieno di ragazzi che scelgono senzientemente dopo i 18 anni, quindi finite le scuole dell'obbligo, di andarsene. Scelgono di andarsene perché non si sentono a casa. Ora facciamo una piccola pausa, ma torniamo a parlare di questo tema con voi tra pochissimo. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Acquisto o noleggio? Perché scegliere quando puoi averli tutti e due? Con Noleggio Chiaro puoi scegliere oggi l'auto di Fiat Chrysler Automobiles che desideri e acquistarla dopo 3 anni a un prezzo garantito. Ad esempio Alfa Romeo Stelvio Super con cerchi Lega da 19 pollici e tuo da 349 euro al mese. Con RCA, furto incendio, copertura danni e manutenzione inclusi nel canone. Offerta valida fino al 30 giugno e soggetta ad approvazione Lisis. Durata del noleggio 36 mesi. Anticipo 11.900 euro. Info su noleggiochiarofca.it. Bentornati ai Figli di Enea, questa sera parliamo di seconde generazioni, dei problemi anche psicologici, come abbiamo visto, che affrontano le seconde generazioni di italiani, quegli italiani nati da cittadini arrivati in Italia da altri paesi. Una di loro è Jovana Kuzman, serba di origine, studentessa. Benvenuta, buonasera. Sì, buonasera. Allora, lei è nata in Serbia, vive a Roma, è romana, non ha mai vissuto in quelli che sono definiti i campi profughi della Serbia, ma ha conosciuto la guerra per i racconti, sa quale è stato il prezzo che è stato imposto a queste famiglie. Quando è arrivata la sua famiglia in Italia e quale è stata di recente la difficoltà legata al virus, coronavirus, che le ancora di più le impedisce il raggiungimento dell'obiettivo della cittadinanza? Allora, la mia famiglia è arrivata in Italia nel 2000, prima è arrivato mio padre e poi successivamente siamo arrivati io e mia mamma attraverso il ricongiungimento familiare. Sicuramente aver vissuto esperienze come i bombardamenti hanno avuto un grande impatto nella mia vita, soprattutto perché una bambina di 2 anni ovviamente rimane traumatizzata da eventi del genere. Per me la scuola italiana è stata fondamentale, perché ho avuto maestre che mi hanno aiutato a imparare a mangiare il cibo italiano, mi hanno insegnato l'italiano, mi hanno in tutti i modi accolto il più possibile, soprattutto quelle dell'asilo. La scuola come punto fondamentale di integrazione, di formazione delle seconde generazioni è una cosa che ritorna spesso. In questo periodo in cui la scuola non c'è stata la didattica a distanza, secondo lei i giovani, i bambini, i ragazzi di origini straniere hanno avuto più difficoltà dei bambini italiani? Sì, assolutamente. Io anche pensando alla mia stessa esperienza, io poi addirittura sono anche figlia unica, spesso per me la scuola era proprio un modo per entrare in contatto con gli altri ragazzi. Io ho avuto la fortuna che io ho iniziato a imparare italiano ancora prima dell'asilo perché vedevo i cartoni, ma poi il contatto con i miei coetanei è stato fondamentale. È stato fondamentale andare a passare i pomeriggi a casa dei compagni, è stato fondamentale fare merenda insieme, ma anche il contatto con le maestre. Che cosa fa lei adesso, Jovana? Io adesso studio scienze politiche all'Università di Roma 3. Ha inoltrato la domanda di cittadinanza? Sì, io ho fatto la domanda per la cittadinanza nel 2018. Purtroppo poi a ottobre del 2018 è stato approvato il decreto Salvini che ha comportato un aumento del termine massimo appunto per spiegare la procedura da parte della burocrazia. Quindi quanti anni ci vorranno per ottenere la cittadinanza? Con il decreto Salvini si è passati da 2 anni a 4 e questa è sicuramente una cosa che ha influenzato molto tantissime persone, soprattutto perché bisogna specificare questa cosa, che il decreto Salvini ha aumentato da 2 a 4 anni il termine appunto per ottenere una risposta dall'amministrazione. Ma questa cosa ha impattato molto anche i bambini che sono minorenni, perché molto spesso i genitori, quando presentano una domanda, loro diventano cittadini poi italiani, ma i figli che sono diventati maggiorenni non ottengono automaticamente, quindi molte persone rimangono fuori. Quindi la mia storia personale ha impattato perché sicuramente ha aumentato i termini, ma ha impattato anche tantissime altre famiglie. Hoće puno, a da rade mini minimalno. A celi život radimo za evre. Daj mi na ler, vratit ću ti te evre. Ne pitaj čale što sam postoa u slender. Školovo za doktora, a radim kao kelner. A celi život radimo za evre. Daj mi na ler, vratit ću ti te evre. Ne pitaj čale što sam postoa u slender. Školovo za doktora, a radim kao kelner. Quindi anche la perdita del lavoro, ad esempio, può essere un ostacolo per i redditi troppo bassi dei genitori. E, tra l'altro, so che in questo periodo sua madre ha avuto una difficoltà lavorativa di questo tipo. Sì, ad esempio, proprio a causa dell'emergenza Covid, mia mamma aveva perso il lavoro poco prima dell'emergenza, ma lavorando nel settore turistico, che adesso è uno di quelli che purtroppo ha più problemi a riprendersi. Ovviamente non sta lavorando e non percepire un reddito abbastanza alto per i requisiti che sono quelli della cittadinanza significa non poterli mantenere. Io anche se ho già presentato la documentazione, le prefetture o comunque il ministero hanno comunque il diritto di poter chiedere un'integrazione nel corso degli anni in cui si aspettano. molte persone quindi scrivono a noi, il Movimento Italiano Senza Cittadinanza, chiedendoci: cosa succede alla mia domanda che ho già presentata? Posso presentarla? Cosa succederà per il 2020? Cioè, è un problema che molte persone si stanno ponendo. Soprattutto perché poi la maggior parte dei genitori lavora all'interno dei settori di cura, dei trasporti, il settore del turismo, alberghiero. Quindi sono tutti settori che sono stati molto, molto impattati. Che ricordo ha della Serbia? E è più tornata? Sì, io sono tornata l'ultima volta nel 2014. Per me il rapporto con la Serbia è un po' un rapporto complicato, in senso, io mi sento italiana e serba contemporaneamente, però la cultura italiana l'ho vissuta appieno, invece quella serba è stata un po' vissuta attraverso i miei genitori, che comunque non si sono mai troppo imposti. Quindi la Serbia me la ricordo, ma ho tipo dei flash. Non ho, la prima volta che sono tornata in Serbia, da quando avevo 2 anni, è stato 8 anni. Quindi c'è tutto quanto un gap di quando ero piccola, che non ho vissuto il mio paese. Poi comunque io, non essendo fluente nel serbo, lo capisco ma non lo parlo bene. Questo sicuramente crea una barriera per rapportarmi anche alle persone lì. Ne pide ciale sto sam posto a uslender, školovo za doktora a radinka o kelner. A celi živo, tratimo za evre, daj mi na ler, vrati ću ti tere. Ne pide ciale što sam posto a uslender, školovo za doktora a radinka o kelner. Cosa chiedono i ragazzi che si definiscono come lei italiani senza cittadinanza? Allora, i ragazzi senza cittadinanza chiedono di essere riconosciuti per quello che sono, cioè italiani. Perché la maggior parte di noi è venuta qui che era molto piccola e quindi non ha compiuto un percorso migratorio consapevole. Noi siamo stati inconsapevoli in tutto questo. Attualmente la legge della cittadinanza permette un procedimento, diciamo, tra virgolette, facilitato, seppur comunque tardivo per chi nasce in Italia, ma per chi cresce il procedimento non è assolutamente facilitato, anzi è lo stesso di una persona arrivata ad adulta. Questo ovviamente comporta molti limiti, ci sono molti ragazzi che non hanno potuto fare concorsi, ad esempio per entrare nell'esercito, anche se avevano quella passione. Io stessa, come studentessa di scienze politiche, molti concorsi non posso farli, quindi diventa la limitazione del mio lavoro. Ma poi paradossalmente non posso farli neanche in Serbia, perché come faccio a fare un concorso in Serbia se non so la lingua? Quindi noi ci troviamo un po' in questa situazione di metà, in cui ci sentiamo italiani, però non siamo riconosciuti. E l'hanno mai fatta sentire straniera? Leggevo che ad esempio il suo nome stesso era un ostacolo di integrazione quando era piccola, o almeno lei lo percepiva così. Sì, allora, diciamo che io non facendo parte di una minoranza visibile, non venivo percepita subito come straniera. Però per poi le caratteristiche fisiche, dice. Esatto. Mm-hmm. Però poi nel momento in cui veniva detto il mio nome, o magari venivano fatti riferimenti al mio fatto di essere straniera, iniziavano le prese in giro, iniziava il bullismo. Sono capitati anche atti in cui mi venivano dette cose molto brutte semplicemente perché avevo un'origine diversa. Quindi sicuramente ai tempi c'era anche un'altra sensibilità, suppongo, però comunque non è stato facile crescere, anche perché in un momento in cui l'identità dei ragazzi si deve formare, quando tu dici di essere serba viene attaccata, quando dici di sentirti italiana viene attaccata perché sei serba, è un po' un momento di confusione. Cosa le dicevano i suoi genitori in quella fase lì? I miei genitori sono stati sempre molto comprensivi con me, hanno sempre cercato di aiutarmi a non sentirmi a disagio. Diciamo che anche loro, avendo avuto lavori molto pesanti, non avevano molto neanche forza di, non di starmi appresso, perché purtroppo non è così, però hanno avuto vite molto complicate, quindi diciamo che questi problemi tendevo a tenermeli anche molto per me, per non dargli un ulteriore peso. A me quello che ha aiutato molto è stato conoscere altre seconde generazioni e altri ragazzi che hanno avuto gli stessi dubbi e le mie stesse esperienze, perché quella è stata una liberazione. Grazie anche a tutti voi per essere stati in ascolto dei Figli di Enea. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo sulle frequenze di Radio 24. Io vi auguro una buona serata e una buona domenica. Da Valentina Furlanetto è tutto. Ciao.